Sura 78. An-Naba. L'annuncio. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Su cosa si interrogano a vicenda? Sul grande annuncio, a proposito del quale sono discordi. No, presto verranno e sapranno. Ancora no, presto sapranno. Non facemmo della terra una culla, delle montagne pioli? Vi abbiamo creato in coppie e facciamo del vostro sonno un riposo, della notte un indumento e del giorno un mezzo per le incombenze della vita. Costruimmo sopra di voi 7 solidi cieli e vi ponemmo una lampada ardente. Facciamo scendere dalle nuvole un'acqua abbondante per suscitare grano e vegetazione e giardini lussureggianti. Invero, il giorno della decisione è stabilito. Il giorno in cui verrà soffiato nel corno, accorrerete a frotte. Sarà spalancato il cielo e sarà tutto porte, e le montagne saranno messe in marcia, diventando un miraggio. Invero l'inferno è in agguato, asilo per i ribelli. Vi dimoreranno per intere generazioni senza gustare né freschezza né bevanda, eccetto acqua bollente o liquido infetto. Giusto compenso, poiché non si aspettavano il rendiconto. Sfrontatamente tacciavano di menzogne i nostri segni, mentre di ogni cosa abbiamo tenuto conto per iscritto. E allora gustate il tormento. A voi non accresceremo null'altro che il castigo. In verità avranno successo i timorati. Giardini e vigne, fanciulle dei seni pieni e coetanee, calici traboccanti. Non udranno colà né vanità né menzogna. Compenso del tuo Signore, dono adeguato da parte del Signore dei cieli della terra e di ciò che vi è fra mezzo, del compassionevole, cui non oseranno rivolgere la parola. Il giorno in cui lo Spirito e gli angeli si ergeranno in schiere, nessuno oserà parlare, eccetto colui cui il compassionevole l'avrà permesso e che dirà cose vere. Quel giorno verrà ineluttabilmente. Si rifugi quindi presso il suo Signore chi vuole. In verità vi abbiamo avvertito di un castigo imminente, il giorno in cui l'uomo vedrà quello che le sue mani avranno preparato e dirà al miscredente: ahimè, fossi io polvere.